rassegna stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Come potete immaginare, uno dei temi è sicuramente la Grecia. Si è parlato molto di queste elezioni e se ne parla ancora, e anche del legame che la vittoria di Syriza può aver avuto o non aver avuto con tutto il negoziato che ha preceduto le dimissioni del governo Tsipras e poi la chiamata a elezioni anticipate. E allora Katimerini, che è uno dei maggiori quotidiani greci, questa settimana parlava di un retroscena, ne abbiamo sentiti tanti. Questo però parla di un retroscena che coinvolge Washington. Secondo appunto il quotidiano greco, era Washington che consigliava la Grecia in questo negoziato. L'edizione inglese addirittura di Katimerini, quindi che molti hanno potuto leggere, ha rivelato che nei mesi che hanno preceduto l'accordo del 13 luglio su un terzo salvataggio, gli Stati Uniti hanno consigliato il governo di Siriza e dei greci indipendenti, ricorderete quella specie di grosse coalizione. Perché? Perché Washington era interessato a tenere la Grecia nell'eurozona, a scongiurare quella Grexit di cui avevamo sentito parlare. Ha suggerito ad Atene di evitare attacchi alla Germania, di cercare di fermare un'alleanza comprendente Gran Bretagna, Francia, Italia e Austria, convincendole che in cambio del loro sostegno si sarebbe seriamente impegnata nelle riforme. Non sapremo mai, probabilmente, se questo backstage delle, possiamo chiamarlo così, io sono ancora un po' in clima sfilate, questo backstage dei negoziati sia veramente stato così. Cosa certa è che alla fine appunto l'accordo si è raggiunto e che probabilmente in effetti gli Stati Uniti, ma come la maggior parte dei paesi occidentali, sono contenti che l'uscita della Grecia dall'eurozona non ci sia stata, e tantomeno dall'Unione Europea, perché anche di questo si era parlato. Poi c'è un altro tema abbastanza divertente, trovo, perché di Volkswagen abbiamo parlato tanto e dopo accenneremo anche ad alcuni articoli che sono apparsi, la vicenda Volkswagen con questi dati truccati sulle centraline per le emissioni dei gas, soprattutto nelle macchine diesel. Ma insomma non è l'unica pecca che la Germania ha un po' da confessare. È stato forse fin troppo gettata la croce addosso alla Germania nel suo complesso, non solo la Volkswagen, per questa vicenda di questi dati truccati. E però, come dicevo, c'è anche un altro punto debole della Germania in questo momento, ed è l'aeroporto di Brandeburgo, e sembra quasi una vicenda italiana, perché è un aeroporto che non si riesce a completare. E allora Vox Europe, che è il sito sapete da cui mi ispiro, che invito tutti voi a visitare, perché fa questo egregio lavoro di monitoraggio della stampa, cita un giornale tedesco che fa un po' di satira su questo, e davvero vi veramente sembra una cosa molto seria. In realtà è una presa in giro di queste scadenze per il completamento dell'aeroporto che continuano a essere procrastinate. E allora si immagina uno studio indipendente, ripeto immaginario, da un istituto che ha un nome molto molto potente, che è Forschungsinstitut Steuergeldverschwendung, e che avrebbe concluso che è prevedibile che la data di apertura dell'aeroporto di Berlino Brandenburgo sia posticipata 2 anni ogni anno. Ditemi se non sembra una vicenda italiana. A questo punto, vi ripeto, è satira, perché questo aeroporto probabilmente a breve verrà davvero completato, ma per i tedeschi già solo il fatto che sia stato posticipato di alcuni anni è uno shock. E da qui appunto la satira, che da noi non funzionerebbe più, perché non sapremmo se è satira o no. Da loro è chiaramente riconoscibile come satira. Quindi il costo complessivo di questo aeroporto aumenterà così di 2 euro circa per ogni euro di investimento. Forse dovrebbero, a questo sito dovremmo consigliare di prendere in esame i costi della Salerno-Reggio Calabria, per esempio. Ma in ogni caso, insomma, questo per dire che a volte poi appunto il mondo è davvero un po' tutto paese. A proposito invece di satira, questa davvero vera, vi segnalo sempre da Vox Europe un intervento di Giampaolo Accardo, che è un giornalista italo-olandese classe 1969, quindi insomma ancora abbastanza giovane, anch'io sono di quell'anno, quindi diciamo che siamo ancora giovani. È stato collabora in Italia con Internazionale, è stato vice caporedattore di Curia Internazionale, e interviene appunto sullo stato della satira in Europa, partendo naturalmente dalla vicenda del settimanale satirico Charlie Hebdo. Ricorderete tutti la mattanza che c'è stata in quella redazione il 7 gennaio di quest'anno, che poi tra l'altro ha avuto anche un seguito, sempre in tema di prendere di mira chi fa satira, in questo caso era satira contro il mondo musulmano. Il 14 febbraio poi c'era stato un altro assalto a un centro culturale danese. Scrive Giampaolo Accardo che le manifestazioni di solidarietà che seguirono l'attentato di Parigi, con centinaia di migliaia di persone scese in piazza l'11 gennaio proprio nella capitale francese, in realtà sembrano già un po' un ricordo, perché da una parte vogliono riaffermare l'attaccamento degli europei alla libertà di espressione, ma poi forse appunto sono state un po' un fuoco che si è un po' già spento, perché ci sono tanti altri piccoli grandi attentati alla libertà di espressione, in particolare alla libertà di satira in Europa. Veniamo un po' alla vicenda Volkswagen. Di articoli ne sono stati scritti e citati tanti. Io ho scelto in particolare uno che è uscito su Handelsblatt, che è un po' un sole 24 ore tedesco, quindi un settimanale economico-finanziario, e che in realtà è molto critico verso questo cambio al vertice. Sapete che il nuovo amministratore delegato dopo le dimissioni di Winterkorn è Matthias Müller, e scrive Handelsblatt: con la scelta tutta interna di Matthias Müller, Volkswagen ha mancato l'opportunità di un cambiamento radicale. Secondo appunto Handelsblatt, alla Volkswagen non serve solo un cambio nella struttura dell'impresa, ma soprattutto una nuova cultura nel vertice aziendale, capace di imporre un clima nel quale i problemi non vengano nascosti ma esposti ai dirigenti. Ed è un po' la stessa opinione della Frankfurter Allgemeine Zeitung, un altro quotidiano tedesco, che appunto individua anche a sua volta in questa strada, cioè di un cambiamento più radicale, l'unica strada verso quella trasparenza che può restituire alla casa di Wolfsburg la fiducia perduta. Un altro retroscena della vicenda Volkswagen lo svela la Süddeutsche Zeitung, che rivela che alcuni top manager sono stati messi in ferie forzate, un modo per tenerli un po' a tacere, diciamo così, così si sospetta, soprattutto perché pare che molti di questi dirigenti in realtà sapessero di questo scandalo delle centraline truccate, ma non l'avessero rilevato. E torniamo al problema della trasparenza. Sempre sul tema Volkswagen, anche un articolo su El País, un quotidiano spagnolo, perché come avevamo già accennato la settimana scorsa, ci potrebbero essere delle ricadute sulla Spagna. Secondo El País, 5 marchi della casa automobilistica Volkswagen sono cioè Audi, Seat, oltre a Volkswagen, Skoda, oltre a Volkswagen anche Audi, Seat e Skoda hanno ritirato dal mercato in Spagna 3.320 auto. Secondo la divisione spagnola di Seat sono però 700.000 le auto di questo marchio con questo sistema di rilevazione dei fumi incriminato perché appunto fraudolento. Veniamo alla Financial Times e alle vicende più economiche in Inghilterra, nel Regno Unito, come in molti altri paesi. Dopo la vittoria, ne abbiamo parlato anche noi, di Corbyn alle primarie del suo partito, il Labour, si è molto parlato di Corbynomics, cioè delle idee che Corbyn ha in politica economica. Alcuni sono spaventati, l'attuale premier britannico David Cameron ha fatto anche un po' di terrorismo economico, dicendo che la Gran Bretagna appunto farebbe dei grandi passi indietro se venissero implementate le teorie di Corbyn. Financial Times le analizza anche tenendo conto di molte spinte che ci sono in questo momento nell'intera Unione Europea anti-rigore, e allora scrive che Financial Times, che è il sole 24 ore britannico in questo caso, ha veramente aperto un dibattito su alcune delle proposte di questa Corbynomics. E tra l'altro in questa piattaforma laburista che Corbyn sta rafforzando, Financial Times ricorda che c'è anche un'economista italiana, Mariana Mazzuccato, che è romana di origine ma ormai da molto tempo negli Stati Uniti, che è autrice di questo saggio Lo Stato Innovatore, insegna alla University of Sussex, è già stata consulente del governo scozzese, anche di quello greco, dell'amministrazione brasiliana e dell'Unione Europea, e parteciperà appunto a questa piattaforma che Corbyn vuole aprire, parrebbe con le migliori intenzioni, per avere pareri autorevoli su quella che in realtà può essere anche solo una spinta populista, e che probabilmente Corbyn non vuole rimanga tale, appunto una spinta populista contro le politiche troppo pro-austerity dell'Unione Europea. A questo proposito vi segnalo un intervento di Pankaj Mishra su Internazionale. Pankaj Mishra è uno scrittore e saggista indiano e collabora con il Guardian, e cerca di spiegare perché Corbyn ha convinto i giovani, perché forse lo ricorderete, quando è stato analizzato questo voto che ha portato Corbyn a essere il leader del Labour, si è notato che sono stati soprattutto i giovani esponenti del Labour a votare per lui. E allora scrive Pankaj Mishra: non deve sorprendere che le nuove generazioni cerchino un'alternativa. Dopo la distanza dai tecnocrati hanno sperimentato anche la vacuità di una democrazia simulata. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.